Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Buonasera a tutti e ben sintonizzati sulle frequenze di Blu Radio Veneto, come ogni domenica, per stare un'oretta in compagnia. Saluto il mio partner Antonio Ceccato. Ciao Antonio. Ciao Gesi e un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto, che invitiamo alla nostra consueta passeggiata virtuale tra sentimenti, emozioni e ricordi sulle frequenze di 88.70 e 94.60 in FM. Per chi lo desidera abbiamo la possibilità di seguire il programma in streaming o di scaricare il podcast dal sito bluradioveneto.it. Questa sera abbiamo con noi la poetessa, professoressa Rosa Antonucci, che salutiamo. Buonasera, veramente volentieri. Buonasera, buonasera. Ciao Rosa, bentornata. Grazie. Sapete che quando mi chiamate io corro. Bene, vengo subito. E allora noi quando ti chiamiamo tu corri. Veramente tanti anni che vengo, da tanti anni, perché tu hai cominciato ma quasi nel 2001-2002, credo, sì, che sia stata la tua prima. Ecco, e da allora puntualmente quando mi chiamate io sono pronta. Bene. E vengo. Allora, stasera vorrei cominciare con una canzone un po' allegra ed è il nostro Polanka che ci canterà ogni volta. Starmene qui, ho negli occhi il color del tuo mare, ho nel cuore l'azzurro del ciel. Ogni volta che devo partire, io mi porto il ricordo di te. La mia casa è laggiù, ma il mio sole sta qui, tu sei il sole per me. Sta soltanto la gioia di pensare che un dì tornerò. Ogni volta che torno, non vorrei, non vorrei più partire. Pagherei tutto l'oro del mondo se potessi restarmi. La mia casa è laggiù, ma il mio sole sta qui, tu sei il sole per me, e non vorrei, lo sai, lasciarti mai, perché ogni volta che devo lasciarti, sento tanta tristezza nel cuore, e mi resta soltanto la gioia di pensare che un dì tornerò. Ed eccoci di nuovo in studio con la nostra ospite Rosa Antonucci, la quale lasciamo la parola. Ecco, io sono molto contenta di essere qua con voi, anche perché così parlo di quello che faccio, che so fare. Veramente prima lo facevo così a tempo perso, adesso veramente è proprio per raccattare questo tempo che scrivo. Perché così passo il tempo, le ore mi passano, non penso, mi concentro su quello che scrivo e vivo in un mondo tutto mio, in un mondo dove ci sono solo io e non dimentico quello che mi fa dolore, che mi fa dispiacere, prendendo dalla vita quello che la vita oggi mi offre. Bene, e cosa ci leggi? Ecco, io direi che io ho cominciato dunque quando voi avete iniziato, era del 2001-2002, io ho iniziato con Ricci di Mare. Sì, hai scritto quel primo, tuo primo libro. Sì, che poi è ancora, pensa, che ancora se ne parla, perché su internet io leggo, quando mi capita di leggere così, di vedere qualcosa, vedo che se ne parla ancora. Lo so, non credo che si venda, non lo so chi lo vende, non lo so. Comunque se ne parla e questo mi fa piacere, perché vuol dire che, insomma, vuol dire che va, ecco. Poi ho scritto ancora altri libri, colori, immagini, voce, armonie, Seducente Medusa, Fragranza di menta, insomma, l'ultimo è Le mie parole al vento, che verrà presentato ufficialmente nel mese di marzo, spero, insomma, non so ancora la data, ma quella sarà. Adesso io volevo leggere, sempre pensando un po' al passato, ecco, vuol dire, su Seducente Medusa, siccome adesso siamo in carnevale, io quasi quasi comincerei con La maschera e il volto. Bene. Bacche rosse sghignazzanti, caricature irriverenti di noti personaggi, figure semoventi su carri infiocchettati. Non potrai più nasconderti, levata la maschera, domani, come sempre, finito il carnevale, di nuovo sarai chi sei. Ecco, bella immagine. Beh, anche perché siamo in carnevale, sì, dire. No, è ecco, vero, sì. Domani sei chi sei. Poi ci sarebbe anche un'altra, sempre su questo libro. Mare d'inverno. Affascina e coinvolge lo sfarzoso spettacolo del tramonto del sole. Vorresti fermare la palla di fuoco che colora il grigio del mare d'inverno di rosso scarlatto, perché quella luce resti ad illuminare la tua anima fredda e muta. Io, ecco, poi dopo di questo, lo so, passerei poi su Fragranza di menta, che è anche abbastanza recente, no? Io di solito ogni 2 anni mi viene fuori. Scusa Rosa, dimmi, in questa sillogia che stai presentando adesso, sì, c'è una poesia che a me piace molto, che è proprio la prima. Allora, Le rose. Dalla finestra appannata appare nel mio giardino una spruzzata di neve come morbida panna. Ho colto l'ultima rosa e l'ho donata a te. Dopo un lungo inverno aspetto che il sole d'aprile faccia sciogliere la neve, far sorridere le rose, sbocciare la prima rosa per dedicarla a te. Lo so, è poca cosa, d'altrove mi vedi. Sai che c'è il mio cuore, tutto il mio amore, fra i petali delle rose coltivate per te. Bello. Questo è dell'altro libro. Ah, non hai seguito? No, oddio, sì, posso andare di qua e di là. Vai, vabbè. Su Seducente Medusa c'è questa riflessione, diciamo così, ecco. Il tempo che passa, ladro il tempo. Inesorabilmente mi ruba ogni istante la vita. Impari e ingiusto il tiro della fune. Vince sempre su di me, succube, indifesa. Il debole va protetto, il ladro punito. Ma il tempo no, lui no, non paga, pago io. Quanto è vero. è vero. Il tempo passa, non no, ci si no, rende neanche conto. No, sei tu che passi del attraverso il tempo. È vero. Sì, il tempo, un po' così, il tempo è fermo. Sì, sì. Ecco, poi potrei leggervi ancora, non so, sulla brevità della vita. La brevità della vita. Forse perché invecchio, ecco, forse mi vengono queste, la scelta di queste poesie, saranno proprio, sarà per questo, perché il tempo mi passa inesorabilmente. Sono ancora in fiore, i glicidi e i lilla nel mio giardino, mi lascio accarezzare dal tenue lilla dei fiori, dal tiepido alito del vento. Quella brezza leggera fa volare petali per portarli fino a me. Coglierò rami fioriti, ne farò leggiadri fasci da mettere in vaso. mi stordirà il profumo, allontanando da me la precarietà dell'esistere. La caducità dei lillà non potrà farmi accettare, giustificare la brevità della vita. Eh sì, la vita purtroppo è breve. Sì, sì. Adesso io potrei anche cominciare a parlare di questo nuovo libro, Le mie parole al vento, che verrà, come ripeto, verrà presentato ufficialmente nel mese di marzo, se tutto va bene. Parole al vento, sì. quando hai incominciato a scriverlo? Mi pare che... Ma abbastanza, poi l'ho lasciato là perché... sai, la vita ti riserva tante sorprese, sono successe tante cose, per cui l'ultimo mio pensiero è il libro da presentare, ecco, per la verità. La prefazione me l'ha fatta il professor Ficara e, dico la verità, è riuscito a capire quello che volevo dire attraverso le metafore, attraverso quello che dico. E ha messo in evidenza i sentimenti che sono celati nel profondo del mio cuore nello scrivere questo libro. Se vuoi leggere la prefazione. È un po' lunghetta, se vuoi te la leggo, sì. Rosa Antonucci, scrittrice, poetessa fine, famosa per le raccolte ricche di mare, colori, immagini, voci, armonie, seducente medusa, fragranza di menta, che tanto successo ne ha avuto in vetta. È vero questo. Come sono in realtà luminosa, con questa silloge di liriche vuole donare a chi ama la poesia genuina ancora una volta un saggio della sua sensibilità creativa e lo dona con quel sentire che ha il colore di una trepida passione. Però a leggere queste cose mi sembra anche, parlando di me stessa, io che sono un po', non sono quella che sa se non le leggi Antonio. Sono un po', come devo dire, imbarazzata. Come se mi celebrassi io, che non è proprio l'ultimo dei miei pensieri. Il professore ha cercato di dire questo, ha indovinato in questo senso, perché tutti i miei scritti, tutto quello che io scrivo, che anche che dico certe volte a qualcuno che ha la pazienza di ascoltarmi, che la mia vita è fatta di sentimenti. Non la mia vita, spererei che la vita degli altri fosse imperniata sui sentimenti, che in quest'ultimo periodo, per la verità, mi sembra tanto, tanto abbandonato, non sia più sentimenti per i genitori, non sia più sentimento per l'amico, non sia più sentimento per nessuno, nemmeno per i figli altre volte. Oppure sono i media, quelli che ci danno le notizie tutto il giorno, forse la televisione, che per la verità oggi io che sono sola mi fa compagnia la televisione, è sempre accesa perché sento parlare, è come se intorno a me ci fosse sempre la folla, ci fosse sempre qualcuno, addirittura certe volte mi sorprendo a rispondere come se parlassero con me, e allora tante volte anche gli insulti mi vengono spontanei e dico: ma come, non è vero, non può essere, bisogna far qualcosa. E io, per la verità, adesso non lo so, forse sbaglio, forse qualcuno non mi segue, ma cerco di tirar fuori da tutto questa confusione i sentimenti, che sono importanti. Ma com'è possibile? Si diceva che anche per la strada, se saluti qualcuno, difficilmente qualcuno ti risponde. Questo è grave, secondo me è una per cosa me molto, la gente è distratta, è distratta la forse gente. Forse la televisione, che si è sostituita ai maestri di una volta. Io ho tanti anni, certamente, e posso fare il raffronto da quella che è stata la mia vita a quella che è adesso. La mia vita era molto più semplice, si viveva di poco, ma i sentimenti erano al primo posto, si aveva rispetto per il padre, non ci si azzardava a rispondere malamente, anche perché si era educato da piccoli. Ci sono invece oggi delle case dove non si dice il buongiorno, non ci si dà la buonanotte, e questa è una cosa gravissima, perché il tempo per dir buongiorno si deve trovare, ci deve essere, il buonanotte della sera ci deve essere, non si può fare a meno, anche se i figli sono lontani, c'è il telefono, e allora io telefono 2 minuti, forse hai tanto da fare, ma io ti do la buonanotte, e questo credo che ti apra l'animo, no? Anche se un amico mi telefona tardi, dopo che sono stata sola tutto il giorno, e mi dice buonanotte, ecco, io sono felice. Sono felice perché dico, beh, qualcuno si ricorda di me, qualcuno mi pensa. Si è interessato, ecco. Capito? Sì. E questo mi dà un... La sensazione di comunità, sbaglio? Sì, così. Allora io nei miei scritti comincio un po' a raccontare la mia vita, cioè faccio un po' il raffronto fra la vita che ho fatto io, insomma, la guerra per noi è stata terribile, ha lasciato degli strascichi enormi, però si viveva felici, con poco, io ho scritto anche tante cose che adesso vi leggerò. Prima però vi dico questo che sto facendo adesso. Cerco nei miei scritti, specialmente per i libri dedicati ai ragazzi, non ai bambini piccoli, anche se anche i bambini piccoli vanno educati da appena sono piccoli, no? Da quando sono piccoli. E io faccio così. Metto in evidenza i sentimenti, li sto raccattando, li sto, come devo dire... Ne parlo specialmente con i ragazzi, raccontando storie che in un primo momento, dico la verità, sembravano anche a me a rileggerli, mi sembravano un po', dico mamma mia, ma sono passati quei tempi, forse adesso non si usano più, forse siccome c'è il televisore, ci sono tutte queste cose che io sto imparando piano piano con tanta fatica, perché i bambini sanno più di me, imparano molto prima di me tutte queste cose nuove, non hai finito di imparare una cosa che subito ne viene un'altra che ti fa dimenticare quello di prima, ma è più complesso, certe volte non arrivo. Però in tutto questo che anzi dovrebbe servire per abituare i ragazzi piano piano al rispetto degli altri, all'amore, per esempio la poesia, ma come? Aspetta un attimo, Rosa, scusami, e dopo continui il tuo discorso. Ci ascoltiamo un'altra canzone? Come no, meglio, ecco, perché allora... sennò se vado avanti. Allora, è intitolata Uno per tutte, che canta Tony Venis. Sei quasi fatta per me, dipinta per me, Claudia. Però confesso che tu mi piaci di più, Paola. Di tutte e tutto mi va, la la la, sempre. Non so decidermi mai, mi trovo perciò nei guai. Vi penso e vedo cieli senza nuvole e mille mandolini m'accarezzano. Poi apro gli occhi, allora mi accorgo che non c'è nessuno accanto a me. Innamorato di te, desidero te, Laura. Non sono bello però, che colpa ne ho, Giulia. Ho sulla bocca per voi, la la la, baci. Ed io li dedico a chi per prima dirà di sì. Senza nuvole e mille mandolini m'accarezzano. Poi apro gli occhi, allora mi accorgo che non c'è nessuno accanto a me. Innamorato di te, desidero te, Laura. Non sono bello però, che colpa ne ho, Giulia. Ho sulla bocca per voi, la la la, baci. E Dio li dedico a chi per prima dirà di sì. E Dio li dedico a chi per prima dirà di sì. E Dio li dedico a chi per prima dirà. Ed eccoci di nuovo in studio con una nuova tranche per la nostra amica professoressa e poetessa Rosa Antonucci. Ecco, continuavo, volevo dire, leggerò Giochi infantili. Se avessero parole, se potessero parlare i cortili delle case che ci videro bambini. Si giocava insieme a campana, a rimpiattino, a saldare con la corda. Semplici eravamo, ingenui i giochi. Quanti ricordi, tanti rimpianti. Beata fanciullezza, non occorreva di più per essere felici. Era così la nostra vita, era semplice, però eravamo felici, c'erano i cortili. E se veramente le case potessero parlare, in questi cortili si riunivano i ragazzi del palazzo, i ragazzi dei dintorni, e si giocava con giochi ingenui, ma che serviva per essere insieme. Adesso invece i bambini dove passano il loro tempo? Perché giustamente i genitori sono impegnati. Una volta lavorava solo il papà e la mamma stava a casa a fare le marmellate. Adesso invece devono lavorare anche loro, perché altrimenti non ce la fanno. E come fanno? Se ci sono dei nonni, bene, che sono abbastanza giovani e giovanili, anche con idee anche moderne per quello, e si occupano loro dei bambini. Ma il brutto è quando non ci sono i nonni, questi bambini sono piantati davanti alla televisione, e la televisione, si sa, è un dramma. Non è tante volte, possono vedere di tutto. C'è qualcuno addirittura che dice sì, i bambini devono vedere di tutto. Secondo me no. I bambini devono essere bambini, i bambini devono avere la loro fanciullezza, le loro birichinate, i pianti, ma certo, perché no, i capricci. Povero quel bambino al quale si impedisce di piangere, di lamentarsi, di fare un capriccio. Io ho visto tante volte tanti bambini abbandonati, e mi auguro sempre che qualcuno li possa prendere con sé per regalare loro una vita normale. Invece questo è un discorso lungo e complesso, non è neanche facile, ci si dimentica di loro tante volte. Ecco, questo volevo dire. Per me i bambini sono sacri. E certo, però tante volte non sono liberi, ecco, anche la scuola non fa niente. Ma anche perché c'è questo computer. Adesso io ho insegnato tanti anni, ma io mi ricordo che quando entravo in classe c'era il rispetto massimo, si alzavano tutti in piedi. Certo. Si dicevano le preghiere. Adesso no, sembra che le preghiere non si possano più dire, perché... Ma un Dio, il Dio è uno solo, ognuno lo prega come vuole, gli dà il nome che vuole, ma vicino alla parola di Dio, alla parola Dio, c'è dietro tutto un sentimento, tutta un'educazione. Infatti i miei libri, quasi tutti, alla fine finiscono sempre con un'invocazione al Signore. Il Signore che è di tutti, no, dici, ma quello è musulmano, quello, ma sempre Dio è sempre quello. Sì, è sempre uno. E quindi bisognerebbe forse avere il massimo rispetto, ecco, questo voglio dire. Bene. Adesso cambierei un po' discorso, questo forse verrà fuori nei miei prossimi libri. La notte per me tante volte è insonne, penso, tanti. Ecco, io dico così, sembra silenziosa la notte, ma è piena di sussurri. Arriva attutito il rumore di una macchina lontana. Fra lo scricchiolio dei mobili, un bisbiglio indistinto, a volte un fruscio dolce come di foglie sostenute nella caduta dal vento. Percepisco caro presente, si materializzano i ricordi, mi pare di riconoscere le voci. Oh, sono io che traduco in parole il lavorio continuo dei tarli trattenuti dalle pareti della casa, compagni insostituibili delle mie notti insonni. Ma è bella, ma insomma i tarli sono i tuoi compagni allora? No, per la verità mi è capitata una cosa l'altra sera. Ero a letto e a un certo momento ho sentito un rumore strano. E nel silenzio della notte mi sono spaventata, dico la verità, mi sono spaventata parecchio. Cos'era? Cric, cric, cric. Allora cric. Mi sono alzata, ho dato un'occhiata in giro, c'era un silenzio che non vi dico. A un certo punto dico, ma io sono alle 4, devo dormire, cosa devo fare? Posso mica stare a sentire il rumore che sento? Mi sono chiusa a chiave in camera, no? Dico, se viene un ladro, perlomeno prima di entrare farà rumore e quindi io mi sveglierò. Eppure il silenzio parla. E nel silenzio che c'era a un certo momento ho sentito lo stesso rumore. Era una finestra che, non essendo stata chiusa completamente, faceva quel rumore che tanto mi aveva spaventato. Comunque il silenzio parla, eh? Ah sì, ti ho detto, certo, è vero, come no, è vero. Ma insomma, ecco, vi leggo solo questa, poi se la prossima. Sì. Anche questo è molto importante, per me è importante l'amicizia. Penso io ho delle amicizie di anni che non si sono scalfite col tempo. Io dico che l'amicizia, come ho sempre detto, è un sentimento. Vedi che si parla sempre di sentimento con me. Il sentimento dell'amicizia è più importante di quello dell'amore. L'amore può finire, l'amore può svanire, magari non ci si ricorda più nemmeno di chi era quello che abbiamo amato, che so io, no? Invece l'amicizia no, l'amicizia, se è una vera amicizia, resiste al tempo. Magari non ci si sente per un certo periodo, non ci si vede perché la vita ci porta lontano, diversi. Ma il sentimento, se è forte, col passare del tempo ci si ritrova, quello che sta succedendo a me. Io adesso che sono sola, tutte le mie amicizie si sono, quelle vecchie naturalmente, quelle, e dall'altra parte anche per loro la stessa cosa, ci si ritrova adesso. E si parla di tempi passati, di speranze, insomma sia sempre un argomento. Per farci, e ci facciamo compagnia, ecco. E io dico così: pietre preziose, non sono una regina, ma tale mi sento. Pietre preziose rare, incastonate nella corona che mi porto appresso. Ogni gemma ha un nome. Qualcuna è caduta per un destino avverso nel corso della vita. Ma il ricordo è rimasto indelebile nel cuore. Di care, preziose amicizie è composto il mio diadema, gioielli senza prezzo, di incalcolabile valore. Continueranno a scaldarmi il cuore e a farmi compagnia per tutta la vita e oltre. Allora, bella. Quando hai cominciato, Rosa, a scrivere giovane? Io, per la verità, da giovane, io ho sempre amato la pittura. Sì, so che ho dipinto. Cominciato perché la mia cugina, che frequentava il liceo artistico e poi l'Accademia di Belle Arti a Firenze, io la seguivo. La seguivo, l'andavo a prendere e ho un po', lo dico sempre, io ho iniziato così. Quell'atmosfera così impregnata di pittura, di colori, cosa devo dire, mi è rimasta dentro. Poi mia cugina ha continuato per la sua strada e io ho dipinto così, spontaneamente. Poi mi sono accorta che non era possibile da sola, perché c'erano degli errori che non andavano fatti, e sono andata a scuola da maestri, perché senza scuola non si può fare niente, non ci si può improvvisare. E così ho cominciato a dipingere. Poi sai, si entra come in un giro, ti chiamano da una parte, io ho sempre detto di sì, sono sempre andata. Quando mi hanno chiamato, sono andata a New York 2 anni, ho fatto la mia mostra di pittura, insomma dappertutto sono andata in giro, ho girato il mondo con questa mia, senza che io facessi niente, perché io di carattere sono piuttosto schiva, e lo sa chi mi è vicino, cioè io non dico mai io e l'asino mio, ecco, è così, cioè mi stiro sempre indietro, e questo me lo diceva mia mamma quando mi vedeva nelle fotografie, e mi diceva: ma tu sei sempre l'ultima, siete in mai in prima fila ti metti. Effettivamente è vero, però se mi chiamano non è che io dico no, vado. Per carità, certo. E anzi ti dirò di più, sono contenta, ecco. E quando qualcuno mi riconosce qualche merito, beh, io devo dire la verità, non mi vergogno nemmeno a dire, sono contenta. E allora mi sprona ancora di più. E allora adesso leggiamo anche le tue prefazioni. Che... Poi a un certo punto, voglio dire, è arrivato un biglietto a casa, no? Per una poesia. Io ne avevo una pronta, ho provato, l'ho mandata, ho vinto. E da lì ho iniziato. E allora ho unito la pittura e la poesia assieme. Forte. Poi sono andata anche a scuola di dizione e recitazione. Ah, insieme sì. A te, sì. Jesi, ho fatto un pochettino di teatro. No? E ci dispiace fatto, tanto dai. Che qualcuno che ci presentava e che ci faceva recitare non c'è più, ma comunque è passato anche il tempo. Diamo un saluto. È vero. Lo stesso alla Silvana Bolzano. A Silvana Bolzano, se non ci fosse stata lei. Ecco, io così vado avanti e insomma, sono contenta. Adesso tutto questo che faccio mi fa compagnia e nella nuova vita, perché io ho cambiato vita totalmente. Infatti in questo libro metà è stato fatto prima di tutto quello che mi è capitato, e invece dopo è diviso, c'è l'ultima parte che è un po' dolorosa, ma che forse vi leggerò qualcosa. Andiamo alla prossima canzone. Sì, che è Solo noi di Toto Cutugno. Io sto bene con te, e mi diceva: tu sei tutto per me, se non è amore, dimmelo tu, cos'è? Si addormentava abbracciandosi a me. Mi risvegliava con un bacio e un caffè, e poi giocava qui nel letto con me. Se non è amore, dimmelo tu, cos'è che poi restava a parlare di noi, solo noi, solo noi. Dimmi che tu mi vuoi, solo noi, solo noi. Il respiro di noi, solo noi, solo noi. Dimmi che nessuno ti ha fatto tremare come tremi con me, solo noi. che non ci sei. Scende la sera, entri dentro di me. Se non è dolore, dimmelo tu. Cos'è? Ti penso ancora, ma tu non sei con me. Solo noi, solo noi. Dimmi che amore. Solo noi, solo noi. La mia mente è dov'è? Solo noi, solo noi. Odio queste lenzuola che sento, cancella il profumo di te. Solo noi, solo noi. Le montagne non vuoi. Solo noi, solo noi. Prati verdi non vuoi. Solo noi, solo noi. Mi dicevi che non puoi restare un minuto lontano da me. Solo noi, solo noi. La mia casa non vuoi. Solo noi, solo noi. Vendo tutto se vuoi. Solo noi, solo noi. Odio queste lenzuola che il tempo cancella il profumo di te. Noi solo noi. Solo noi, solo noi. Solo noi. Ed eccoci di nuovo in studio. Prima di lasciare la parola alla nostra ospite, volevo proseguire nella lettura della prefazione del professor Ficarra. Si avverte in ogni lirica un senso di pacata letizia, un respiro di pace, un andamento piano, riposato, riflesso musicale dell'inafferrabile ritmo dell'anima. È davvero un dono delle Cariti questa raccolta di liriche, la quale si presenta in elegante e raffinata veste tipografica e grafica, corredata da splendidi dipinti, frutto dell'attività pittorica della stessa autrice, in perfetto accordo con il contenuto delle poesie, un fluire di immagini in un'unica sequenza melodica. Ogni poesia ha la cadenza di un adagio, ogni verso contiene un segreto travaglio di pensieri da donare agli altri attraverso una sofferta analisi di sé o un bisogno di colloquio intimamente avvertito. C'è di tutto in questa raccolta. Nella lirica Le mie parole al vento, che le dà il titolo, sono focalizzate le idee madri, frammenti d'animo, intimi pensieri, attimi di piacere, momenti di gioia, di dolore, di mistero, affidati al vento, perché qualcuno col suo sentire li catturi, rielabori e le faccia sue. Sono temi ricorrenti che però di volta in volta acquistano un calore d'anima. In questo contesto di placide modulazioni di tinte e di linee, la malinconia di un ricordo e il luccichio di una lacrima, sentimenti così umani, non impediscono alla poetessa di esortare a creare, a realizzare, perché non è infinito il tempo per dare la vita ai nostri sogni, la voce del cuore. Ma la cifra dell'arte misurata dell'Antonucci si coglie meglio nei ricordi suscitati da vecchie fotografie, da giochi infantili, da sogni giovanili. Quanti ricordi, tanti rimpianti, giochi infantili, ma anche nella consapevolezza della fugacità della vita, nella realtà della morte, nell'amore che illude e delude e perfino nella riflessione teorica, la filosofia spicciola, tanto necessaria per vivere in armonia con il proprio interiore. Mestizie di cose passate e infrante, seguite da improvvise accensioni della fantasia, o meglio, da un elevarsi dello spirito verso altro tempo, verso altre dimensioni. Tutto questo mondo troviamo nell'anima inquieta della poetessa, la quale nel momento in cui ringrazia la vita per quello che le ha dato, piange per quello che essa le ha tolto. In questo doloroso contrasto, la sua anima, inebriata dall'amore e piagata dalla sofferenza, s'acqueta ascoltando la voce di Dio, annunziatrice di lontane e misteriose bellezze. Ecco, bello. Io non sarei stata capace di leggerlo perché mi sembrava. Io vorrei leggervi adesso, spero che non sia troppo triste. Assolutamente, vorrei... no, è la realtà della vita. Ecco, questa l'ho scritta per mia figlia. Ad occhi chiusi, senti stanotte come fischia il vento. Attraverso le fessure degli scuri arriva fino a me come un lamento, insieme al sibilo, la voce tua. Ad occhi chiusi, per star più attenta, e non perder nemmeno una parola di quel che vuoi dirmi e non mi hai detto prima. So che mi ascolti quando smetti di parlare. Credevo di aver tempo, ma sei fuggita via. Quante cose avrei voluto dirti anch'io, cari ricordi di quando eri bambina. Cose di questo mondo che non è più tuo, tu che indietro ormai non puoi tornare, che adesso non hanno più valore, ma resteranno sempre nel mio cuore. Ad occhi chiusi vedo il tuo bel viso, con infinito amore ascolto la tua voce, mentre piange con me il vento. Bella, commovente. Sì, decisamente. Ultima frase, sì, molto commovente. Ve ne leggo un'altra. Sì, certo. Forse, spero che, insomma, ma non di più. Ecco. Sempre da che cosa? Da Seducente Medusa questa? Sì, questa qua invece è di questo libro. Di questo nuovo? In riva al mare. Sì. Addormentarmi così, una notte in riva al mare, sotto gli occhi della luna, cullata dal vento, dal canto delle sirene, dal dondolio delle barche, dal mormorio delle onde che accarezzano l'arena, e sognare, sognare la vita che vorrei, annullando la realtà che mi aggredisce, non accetto e rifiuto. Al risveglio d'incanto il sogno svanisce. Per non arrendermi troverò la forza di superare i giorni opachi e continuerò a vivere. Bella anche questa, sì. Sì, una strada a senso, sì, unico. Sì. Questa è Dalle mie parole al vento. Ah, ecco. Ne hai scritto una anche per la mamma, Dalle mie parole al vento, mi pare, eh? Sì, sì. Ecco, sì, la, cos'è, vero. La piuma? La piuma, sì. Beh, intorno a me, sì, sì. Vabbè, è troppo poi, è troppo. No, prego. L'eco del mare. Dalla finestra socchiusa arriva l'eco del mare. Lo sciabordio dell'onda che accarezza la riva si ritrae lasciando gusci di conchiglie iridescenti sotto la luna. Una musica dolce, il movimento di va e vieni con ritmo sempre uguale. Fragili ombre evanescenti davanti ai miei occhi stupiti avanzano verso le mie mani tese per trattenerle in un abbraccio. Appaiono e si dissolvono. Stringono ancora il nulla, le mie braccia vuote, attonite e deluse. Bella. Hanno un fondo di tristezza. Sì, e beh, ecco, questo volevo dirvi. Infatti, per quello che ho detto, che il mio libro è diviso in due parti. Sì. Questo fa parte della seconda parte. Della seconda parte, non ho potuto fare a meno. Cioè, non ho voluto un libro intero, ma forse tante persone si ritroveranno in quello che io dico. Decisamente, perché non è, la vita non è soltanto... E quello che dico sempre io, che non bisogna farsi aggredire dalla malinconia, ma quando c'è da ridere, quando c'è da divertirsi, quando c'è da godere di un tramonto, da godere, bisogna goderlo appieno, perché tanto i giorni tristi vengono lo stesso. Anche se non vogliamo, e poi chiaro. Questi giorni o migliorano una persona o la peggiorano. Perché certe volte la peggiorano e questo è brutto. Ma bisogna certe non volte... lasciarsi prendere dallo sconforto. Direi, ecco, che ancora un paio di poesie. Un paio di poesie, avanti. Sì, sì, esatto. Essenza di rosa. Ho lavato il mio viso con essenza di rose. Mi specchiavo nell'acqua ai bordi di uno stagno, imitando Narciso, fiduciosa, cercando nello specchio il risultato. La figura che appare... che vedo riflessa è come sono adesso. L'acqua cheta mostra l'anima mia inquieta, che ha accettato ciò che la vita le ha dato, disperatamente piange per quello che le ha tolto. Sì. Ma magari un'altra, se poi che così completiamo questo ciclo di considerazioni, di sentimenti, sì, di sedimentazioni profonde proprio nell'animo. E con questo forse chiudo. Forse è un po' triste, però credo che tante persone ci si ritroveranno. Con te, sempre più deboli le mie forze contro il tempo che avanza. Veloce si avvicina il traguardo che solo il destino conosce, perché lo ha deciso per me. Ogni giorno è uno di meno. Si accorciano le distanze da quell'ineluttabile momento che inimmaginabile temo. Ma tu stammi vicino. Stringi la mia mano forte, forte. Col cuore sentirò quel calore. Non sarò sola, non avrò paura. Perché oltrepasserò la soglia dell'infinito con te. Ecco. D'accordo. E con questa emozione passiamo al prossimo brano musicale. È meglio così. Certamente. Allora, Peppino Cagliardi ci canterà Che vuole questa musica stasera. Che vuole questa musica stasera? Che mi riporta un poco del passato. La luna ci teneva compagnia. Io ti sentivo mia, soltanto mia, soltanto mia. Vorrei tenerti qui vicino a me, adesso che fra noi non c'è più nulla. Vorrei sentire ancora le tue parole, quelle parole che che mi riporta un poco del passato. Che mi riporta un poco del tuo amore. Che mi riporta un poco di te. Così di nuovo in studio e diamo la parola ancora alla nostra poetessa Rosa Antonucci. E questa volta leggerò qualche cosa che può servire a tutti. Cioè, tutti ci si ritrovano in quello che io scrivo. E questa è dedicata a mio figlio. E dico così. Può aggredirti la vita con ingiustizia e affanni, ma tu non disperare. Difenditi coi denti se sei nella ragione. Combatti, abbi fede, raccomandati a Dio, anche se ti sembra assente. Stai attento, non rischiare, ogni errore a volte si paga duramente. Se cadi, rialzati, affida la tua mente con fiducia al cielo e non dimenticare mai, quando esce Dio dal cuore degli uomini, può entrare di tutto. Questo credo che tutte le mamme, cioè ogni volta che suo figlio, specialmente i figli maschi che sono quelli più temerari, così, e si raccomandano, mi raccomando. E magari certe volte ci sentiamo uffa, sempre le stesse cose. Ecco, però noi mamme, per noi è un gioco delle parti, così, evidentemente. Sì. Siamo così, mi raccomando. Specialmente quando sono più giovani. Quello è vero. E d'altra parte le mamme devono fare le raccomandazioni, no? Sennò... ognuno ha il proprio ruolo. Certo. Adesso il sogno. La realtà è amara, crudele. Chiudi gli occhi e sogna. E poi inventarla la vita e accettare per vero quello che esiste solo nella fantasia. Per essere felici? No, per non morire. Tante volte il sogno ci aiuta a vivere, sogniamo. Ce la faccio ancora una? Non ho più, tranquillamente. Mare, amore mio, è bello passeggiare nella calda notte estiva, lentamente sulla riva, a piedi nudi, a piccoli passi, immersa in un mondo irreale, fiabesco. Parlo a voce bassa di me, della mia vita, di attimi perduti, di segreti pensieri. E il mare, sincero, tenero amore mio, ascolta e mi risponde. Mi dice piano piano ciò che voglio sentirmi dire, con lo sciabordio dell'onda che si frange sulla riva. Io credo di aver finito, di aver detto un po' quello che tutti i sentimenti che io ho potuto esprimere. E come ripeto, quest'ultimo libro è diviso in due parti. Nella prima parte l'ho scritta prima di quello che mi è successo dopo. E inevitabilmente dopo il grande dolore che io ho ricevuto, diventa un po' più triste. Ma in fondo la tristezza fa parte della vita, come ripeto. Adesso si pensa al domani, si pensa al futuro, a quel poco che rimane certamente. Ecco. È meglio non pensare a quanto o poco. Questa poesia scritta per mio figlio forse può servire a tutti. Questo forse mi dà un po' di... Sì, per chi ha dei figli, certo. Potremmo andare con l'ultimo brano in programma e così a concludere la trasmissione. Allora, l'ultimo brano in programma è Uomini soli, cantata dai Pop. Incontri dove la gente viaggia e va a telefonare, col topo barba che sa di pioggia e la 24 ore, perduti nel Corriere della Sera, nel vai e vieni di una cameriera, ma perché ogni giorno viene sera? A volte un uomo è da solo perché ha in testa strani tardi, perché ha paura del sesso, per la smania di successo, per scrivere il romanzo che ha di dentro, perché la vita l'ha già messo al muro, o perché in un mondo falso è un uomo vero, Dio delle città. magari un po' cambiarla prima che ci cambi lei. Vediamo se si può farci amare come siamo, senza di orientarci più con nevrosi e gelosie, perché questa vita stende e chi è steso dorme o muore, oppure fa l'amore. Sete d'avventura, perché han studiato da prete o per vent'anni di galera, per madri che non li hanno mai spezzati, per donne che li han rivoltati e persi, o solo perché sono dei diversi. Dio delle città e dell'immensità, se è vero che ci sei, che hai viaggiato più di noi, vediamo se si può imparare queste donne e cambiare un po' per loro, e cambiarle un po' per noi, ma Dio delle città. Eccoci di nuovo in studio. Rosa, ormai siamo arrivati alla fine della trasmissione e noi ti ringraziamo sentitamente e spero che ci sarà un'altra occasione con altre poesie, con altri racconti, che tu hai tanta roba, però adesso non ci resta che salutarti e dirti alla prossima volta. E grazie. E grazie a voi. E salutiamo anche i nostri ascoltatori e diamo appuntamento, a Dio piacendo, a domenica. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.